ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. E potevano diventare pericolosi se egli insisteva nel provocarli. Dovette capire lui stesso che era meglio correre ai ripari. E fu fortunato perché, passando per le strade gremite di gente, vide un uomo, un mendicante, che era cieco fin dalla nascita, e ciò perché fossero manifestate in lui le opere di Dio, e va e le... La piscina di Siloe era sempre gremita di disgraziati e di curiosi, perché si diceva i malati che riuscivano a buttarsi in acqua al momento opportuno ne uscivano guariti. E quindi il fatto che il cieco, dopo essersi lavato in un momento che non era neanche quello giusto, ne uscisse vedendoci, non passò inosservato. E probabilmente era appunto ciò che il rabbi desiderava avvenisse. Ma quando l'uomo tornò al suo luogo di accattonaggio, gridando che ci vedeva, le cose si complicarono. Alcuni, anzi parecchi, sostenevano che quello che ci vedeva non era il mendicante di poco prima, ma un altro che gli somigliava. Lui aveva un bel dire che era proprio lui, non gli credevano. Ed egli spiegava che era stato un uomo che si chiamava Gesù a guarirlo, però non sapeva dire dove questo Gesù presentemente si trovasse. Ora, era di sabato che Gesù aveva fatto il fango e aveva aperto gli occhi al cieco, e il sabato era il giorno di riposo consacrato all'Eterno nostro Dio. Nel settimo giorno era prescritto: non fare lavoro alcuno, né tu né il tuo figliolo, né la tua figliola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il tuo ospite che sta dentro le tue porte, affinché il tuo servo e la tua serva si riposino come te. La questione era: si doveva considerare lavoro impastare fango e spalmare le palpebre d'un cieco? La risposta non era facile. Perciò presero il miracolato e lo portarono dentro il tempio dai dottori e farisei. Tuttavia, in quella circostanza, pure i dottori e i farisei... Credi tu nel figlio? Quello rispose: Signore, chi è il figlio di... Tu lo vedi? Ecco lui. Allora il miracolato gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, io credo. Un po' di gente s'era raccolta a guardare quel che succedeva, ma a conti fatti quel prodigio non aveva reso tanto quanto Gesù si riprometteva da esso. Così, forse per rimediare, egli si mise a dire una parabola dove si parlava di pecore e di pastore e di gente che, invece di entrare nell'ovile dalla porta, vi entrava arrampicandosi da una parete, e sicuramente costoro erano ladri e banditi. Di questo insegnamento coloro che ascoltavano poco capirono. Perciò egli tentò di dar loro spiegazioni e fu ancora peggio. Disse infatti che lui era la porta e che coloro che erano venuti prima di lui, cioè prima che esistesse la porta dalla quale ovviamente non si sarebbero potuti servire neanche volendolo, erano ladri e banditi. Ora si chiedeva la gente chi erano coloro che erano venuti prima di lui. I profeti e i re di Israele? In questo caso si potevano chiamare ladri e banditi Abramo e Giacobbe, Davide e Samuele? Oppure non a re e profeti antichi alludeva, ma ai tanti improbabili profeti da qualche tempo vaganti tra villaggio e deserto? Se così era, poteva anche avere ragione, ma... E il battezzatore decapitato? Insomma, essi mormoravano ed egli, sempre con la buona intenzione di chiarire le cose, disse che lui era non solo la porta dell'ovile, ma anche il buon. Ve l'ho già detto un'altra volta, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio mi rendono testimonianza, ma voi non credete, perché non siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno. Eravamo alquanto imbarazzati, Simone ed io. Il suo discorso era ingarbugliato e anche abbastanza duro. Non erano per niente soddisfatti. Essi avevano posto liberamente una domanda schietta e lui rispondeva non senza insolenza, perdendosi in fantasticherie. Già essi facevano fatica ad accogliere l'idea che quel giovanotto discontinuo e scontroso, e Galileo per giunta, potesse essere l'unto, culmine e risoluzione d'una sacra storia cominciata nell'Eden e passata grandiosamente per re e profeti, e lui, invece di aiutarli e dichiarare apertamente, in modo che poi se ne potesse discutere, «Ecco l'unto e messia promesso da Dio e qui sono io», scivolava in espressioni enigmatiche che dicevano e non dicevano, eludevano il vero nocciolo della questione. In effetti, io sono, senza alcun complemento, come bisognava intenderlo. E quale significato si poteva dare alla frase «Io e il Padre siamo uno»? Quando alla domanda «Dov'è tuo padre?» egli aveva risposto con una specie di indovinello. E poi, perché aveva deciso che loro non erano sue pecore? Non avevano alcuna possibilità d'esserlo, da quanto si poteva capire, escludendoli dalla vita eterna e da altri nebulosi benefici e privilegi. Avevano anche ragione se si sentivano presi in giro nelle loro buone intenzioni, perciò insieme ad altri che erano nel frattempo sopraggiunti raccolsero delle pietre con l'intenzione di lapidarlo. Gridavano minacciosi e qualcuno più esaltato degli altri, ma potevano anche essere emissari dei dottori e farisei, cominciò a scagliargliele contro senza tuttavia colpirlo. Egli non mostrò paura. Il coraggio doveva avvenirgli più che altro dalla persuasione che la sua ora non era ancora giunta, e li apostrofò con calma e avvedutezza, addirittura cercando di metterli in colpa. «Vi ho mostrato molte opere buone che vengono dal Padre. Per quale di queste opere volete lapidarmi?» Anche i più animosi trattennero la pietra in mano. Uno rispose a nome di tutti: «Noi non vogliamo lapidarti per un'opera buona, ma perché bestemmi. Sei uomo e ti fai uguale a Dio». Era un'obiezione pericolosa e il rabbi doveva trovare la risposta giusta se non voleva porre fine anzitempo alla sua vita terrena. Si raccolse per meditare, quindi parlò con prudenza e avvedutezza, citando il Salmo di Asaf, secondo cui tutti i figli di Israele, in quanto figli dell'Altissimo, sono essi stessi dei. Perché dunque lo accusavano d'essere bestemmiatore se diceva ciò che stava scritto nel libro, ciò che tutti gli ebrei potevano legittimamente dire di se stessi? Il ragionamento era sacrosanto e finalmente chiaro. Parecchi tra i giudei lasciarono cadere le pietre. Allora, inesplicabilmente, forse si sentiva troppo sicuro e forzò la situazione affinché quelli che credevano in lui sopraffacessero gli altri, riassunse un tono arrogante: «Sono santificato dal Padre e da Lui inviato nel mondo, come mai vi permettete di dire che bestemmio se dico che sono il figlio di Dio, quando anche le scritture confermano che ogni uomo lo è? Se non compissi prodigi, potreste non credermi, ma li compio. E anche se non voleste credere a me, dovete credere a ciò che compio. Dovrete allora riconoscere che il Padre è in me e io in Lui. Se aveva un senso questo discorso, significava: tutti i figli di Israele sono figli di Dio, però io sono il figlio di Dio, con un rapporto particolare e privilegiato, per cui io posso fare prodigi, anzi, io sono tutt'uno col Padre, con l'Altissimo. Essi non potevano accettare né il discorso né il tono col quale egli l'aveva pronunciato, sicché tornarono a volare pietre. Molti premevano per catturarlo, altri cercavano di opporsi, ne nacque una grande confusione dalla quale egli approfittò per squagliarsela. Era un'arte che conosceva molto bene e della quale seppe molto approfittare, finché volle. Per qualche tempo ancora restammo, io e Simone, senza sue notizie, finché il servo di Nicodemo venne a dirci che egli stava oltre il Giordano, nei luoghi in cui Giovanni aveva battezzato, e che potevamo raggiungerlo. Decidemmo di partire il giorno dopo. La sera, nella taverna di Aser, incontrammo Ariel. «Il Galileo ha potere», ci disse. «Il suo sguardo e il suo gesto sono maestosi e autoritari. È abile, astuto, coraggioso, perfino temerario, ma non ha alcun senso politico. In una città già spezzata in 100 correnti, ha portato nuove discordie. Dobbiamo unire, non dividere, tenere tutti insieme contro Roma. Anche i dottori, i farisei, i sadducei, finché servano. Siamo contenti che il vostro rabbi se ne sia andato. Vogliamo che non torni più. Voi che intenzioni avete? Noi pensiamo che a Gerusalemme possiate rimanere senza rischi. Chi vi cercava si è dimenticato di voi». Risposi per tutti e due: «Noi andiamo a raggiungerlo». Ebbe un moto di stizza. «Ma se nemmeno credete che sia l'unto?» Simone disse: «Io credo». Si rivolse a me: «Ma tu no? Almeno così mi hai fatto intendere. Tu sei istruito, intelligente. Prova ad esaminare il tuo rabbi con un po' di senso del ridicolo. Resterà poco più di un ciarlatano». Risposi: «Io gli appartengo». Rifece più violento il moto di stizza. «A tal punto ti ha soggiogato, Giuda? Eri un uomo fermo una volta. Su te si poteva contare». Risposi: «Non sono cambiato. E sono più fermo che mai. La liberazione di Israele è il mio primo pensiero, ma sono certo che Gesù di Nazaret è l'uomo più adatto per portarci al regno». Capì che non sarebbe servito a niente insistere e disse con sincera amarezza: «Finirà lapidato o crocifisso, e non solo lui. Moriranno anche molti che sono legati a lui e saranno morti inutili». Anch'io ne ero convinto, per ciò che mi riguardava. Tuttavia non tanto della inutilità quanto della necessità della mia morte si trattava, o meglio della sua inevitabilità. Ne portavo il segno addosso, sempre più evidente. Dissi: «Ariel, sto imparando a conoscere il senso della morte e lo accetto. Può darsi che Gesù di Nazaret non ci porti al regno, ma io non so che altro aspettare. In questo tempo ho visto Gerusalemme, Il tempio, dottori e farisei, il popolo come agisce e pensa, ho visto che non è giusto ciò che accade e non ho più molta voglia di vivere. Ribatté, dopo aver riflettuto, credi che io e gli altri siamo contenti di quel che si vede in Gerusalemme? Credi che io e gli altri non siamo pronti a morire? Ma vorremmo morire per la nostra nazione, con una spada in mano, non per debolezza o disperazione. Comunque, voi due siete stati nel movimento e mai avete tradito. Se avrete notizie utili alla causa, fatemele sapere. All'alba, Simone ed io uscimmo da Gerusalemme e prendemmo la strada che porta ai guadi del Giordano. Faceva freddo. Il vento del deserto piegava cespugli aridi lontani dalla primavera. Noi rabbrividivamo nell'unica tunica che ci era stata concessa. La carovaneria andava da un ciglio all'altro di gialle ondulazioni. Ogni tanto passavamo presso posti di bivacco dove qualche carovana aveva sostato e ora cani randagi s'ostinavano a cercare tra magri rifiuti, rabbiosamente contendendosi ossa spolpate, e d'altra parte noi non avevamo niente da dargli, non portavamo cibo con noi, come stabilito. Camminavamo senza parlare, Simone ed io, lui avanti e io dietro. La solitudine era la condizione cui mi avevi abituato e destinato, come è giusto per chi deve predisporsi a mete più alte. Io alla tua destra, nessuno alla tua sinistra, noi due soli sull'alto del trono a dominare nazioni con splendore. Non erano fantasticherie da coltivare. Conveniva misurarsi con inquietudini più prossime per non finire amaramente in disinganni e prostrazioni. In fin dei conti, ciò che me era stato messo o m'ero messo innanzi era un sacrificio illimitato ma umile. E quando parlavi di troni e ricompense e glorie, era come sottintesa la mia esclusione. La mia sola remunerazione dovevo trovarmela nella necessità che sembravi avere di me. Me ne sentivo orgoglioso. E con vanità mi chiedevo se il sacrificio fosse stato chiesto da te a me o non piuttosto offerto da me a te. Non era semplice trovare il bandolo della nostra comunione e dipendenza. Benché fosse fuori di discussione, sul piano dei dati di fatto che ero venuto io a offrirmi, a pregarti di prendermi, era altrettanto certo che per incantamento m'avevi subito coinvolto al primo vederti, e in questo stava speranza e timore che tu fossi davvero l'unto, il veniente dell'Eterno, che per qualche oscura e mortale ragione aveva bisogno della mia morte. Angosciato da dubbi e incertezze, davanti a me il passo tenace e ottuso di Simone che incertezze non aveva, pregavo con parole antiche: «Sii tu benedetto, o eterno nostro solo Dio, dammi intelletto, inclina il mio cuore alle testimonianze». Ma dove stavano le testimonianze? Nel freddo, nei cespugli aridi, nella fame dei cani, nella fatica di camminare, nei roveti che non ardevano? O dovevo cercarle in me, nella mia inquietudine e sofferenza, nel mio fervore che non riusciva a trovare compimento, nella mia generosità e dedizione che non intravedevano ricompensa? Mancando le risposte, sprofondavo nella tristezza. Remoto il canto di Davide: «Destatevi, salteri e cetre, voglio risvegliare l'alba». Quando mai m'era stata vicina la voglia di risvegliare l'alba con gioia? Le mie albe erano sempre state cariche di doveri, abnegazione, impazienza, orgoglio, volontà di potenza, sconfinato impegno verso l'Eterno degli eserciti e, in mancanza di meglio, sollecitudine di morte. Sicché rabbi quando ero venuto a dirti: prenditi la mia vita e cerca di fartene qualcosa, ti avevo fatto un ben misero dono. Ero già consumato dalle domande, pronto al deserto. Perché così grande smania di segni? Perché così poca pace nel cuore? Penare per niente a che serve? Goditi la giovinezza, mi ammoniva Coelet, e io andavo da tutt'altra parte. Nella sua terra, l'Eterno nostro Dio permetteva il vino che dava ebbrezza e dimenticava, permetteva cibi graditi al palato, gigli da cogliere nelle valli, greggi da pascolare nei giardini, fanciulle che invitavano con occhi di colomba. Come sei bella, amica mia, come sei bella. I tuoi occhi sono occhi di colomba in riva al ruscello. E lei rispondeva: come sei bello, amico mio, come sei amabile. Anche il nostro letto è verdeggiante. Quanto inarrivabili semplicità e letizia. Quanto vero l'ammonimento: goditi la vita, ragazzo, perché è un soffio la giovinezza. Nerezza di capelli, un soffio. Oh, Coelet, la nerezza dei miei capelli non sarebbe finita. Portavo un segno d'elezione intorno al collo e tu, Gesù, sapendolo, dicevi: l'ora viene ed è questa. Bene, ero pronto a qualsiasi dovere tu mi avessi chiamato. Allora era tanto ignobile fantasticare d'un posto accanto a te sul trono della gloria. Dovevo forse immaginare che spettasse a Giovanni o a Pietro. Chi tra di noi si era dato più profondamente? Chi si sarebbe comportato con minor disonore quando fosse giunta l'ora? Il dolore del mio vivere, l'ansia di trovarne il perché mi serravano il cuore. Oh, tentazione del ridicolo! Simone ed io, tuniche sventolanti, piedi piegati, occhi arrossati, sabbia sulle labbra, in cammino gloriosamente digiuni verso la liberazione del popolo bastardo, il trionfo di Israele e poi finalmente la fine dei tempi. Ma in te non riuscivo a trovare ridicolo, per quanto fossi consapevole degli aspetti stravaganti delle tue avventure. I tuoi giorni a Gerusalemme mi avevano dato un'immagine di te ancor più turbata e ambigua. Mai ti avevo visto così violento e pavido, arrischiato e prudente, triste e provocatorio, sprezzante e sommesso, specchio della sacra città. Oh, Gerusalemme contornata di monti, piena di clamori, di tumulti, piena di gaiezza e di vergogna, di fede e di ignominia. 3.000 soldati di Roma parevano sufficienti a tenere sottomesso un popolo che pure era stato scelto e benedetto. Sotto la protezione discreta d'un procuratore pagano, gente continuava ad affaccendarsi in traffici e mestieri senza preoccuparsi di interrogare l'Eterno nostro Dio. Né dell'Eterno nostro Dio sembravano darsi tanto pensiero sacerdoti, dottori, farisei e sadducei e quanti altri si industriavano di costruire un vivere di ragionevolezza in accordo con la legge e non in disaccordo con Roma. Era il popolo che eri andato a cercarti, Rabbi, e disperata frattura e rinunzia, delusione e amarezza, avevi parlato loro con la veemenza degli antichi profeti. Popolo carico di iniquità, razza malvagia, figli di demoni, mai vedrete la gloria. Ma se loro non erano destinati alla gloria, come avremmo potuto arrivarci noi? Non era essere Israele condizione e impegno comune? Oppure a causa dell'iniquità si doveva considerare rotto il patto d'alleanza con l'Eterno? E tu eri venuto a ripristinarlo, ma escludendo alcuni e privilegiando altri? O Signore, dammi intelletto per capire. Insegnami la via. La praticherò con tutto il mio cuore. La mia vita l'avevo messa nelle tue mani e mi sforzavo che diventasse un atto di fede, non di incantamento. Ma nessun aiuto mi veniva da te, né da colui che tu chiamavi padre. Una volta nel tempio, quando i giudei esasperati avevano cominciato a scagliarti pietre, mi trovai a desiderare che ti uccidessero infine, sebbene non riuscissi a immaginare che cosa avrei fatto di me dopo. Marco Foschi ha letto La Gloria di Giuseppe Berto. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.